Nell'Uomo delinquente, Cesare Lombroso fa alcune interessanti considerazioni sul rapporto fra denti e criminalità. Dice che nelle persone portate a commettere reati di vario genere, innanzitutto si riscontra frequentemente il fenomeno della carie precoce, poi il diastema, ovvero i denti allontanati fra loro, insomma, poi le striature trasversali dei denti, la presenza di denti in soprannumero, poi ancora più frequentemente che nelle persone cosiddette normali, manca in essi il terzo molare, detto anche evidentemente non a caso il dente della saggezza. Infine, nel 4% degli omicidi, dice sempre Lombroso, è stato notato uno sviluppo sproporzionato dei canini. Un brano del Manichino di Vimini di Anatole France conferma il clima ideologico in proposito, così come lo si respirava intorno al finire del secolo scorso, giusto appunto quando operava Lombroso. In una chiacchiera fra conoscenti si discute della prossima esecuzione ormai certa di un turpe assassino ed uno degli interlocutori, un medico, per illustrare più compiutamente il caso e forse per portare un argomento che inducesse a clemenza, afferma di aver lui stesso visitato il condannato e dichiara che la dentatura è anormale, ne induco perciò una responsabilità limitata. Gli si contrappone allora un altro interlocutore, alludendo alla vicenda terrena della sorella di Mitridate VI, Eupatore Dioniso, re del Ponte, del Ponto. Mitridate, per l'esattezza quello detto il Grande, non so quanto propriamente, visto che di legnate non gliene ha poi lesinato nessuno, era asceso al trono ammazzandosi personalmente la mamma e il fratello e da greco in cerca di guai tra l'80 e il 70 avanti Cristo o giù di lì, aveva deciso di adottare una politica fieramente antiromana. Mal ovviamente gliene ha incolto e non contento di aver già dovuto lasciare Atene piuttosto precipitosamente perché incalzato dalle armate vincenti di Silla, qualche anno dopo era di nuovo fra i piedi di Licinio Lucullo, che in pratica giusto riteneva annettere all'impero romano tutto ciò che Mitridate possedeva. Gli tocca riscappare più precipitosamente di prima e questa volta non riesce a portarsi dietro l'amata sorella Laodice, Laodice come la mamma, Laodice come la zia, era un nome che in famiglia andava molto, che nel frattempo, visto che le dispense papali a quel tempo non andavano ancora di moda, si era anche liberalmente sposato. Riesce tuttavia, nella fuga precipitosa, a provvedere affinché la poverina non cadesse nelle mani di Lucullo, il quale 9 su 10 le avrebbe riservato un trattamento poco rispettoso. Dà ordine allora ad uno schiavo muto di strangolarla prima che cadesse viva nelle mani dei romani e pare che questa Laodice fosse tanto mite e riconoscente da dichiarare, mentre il cappio si andava stringendo alla gola, da dichiarare: rendo grazie al re mio fratello di aver serbato fra le preoccupazioni che lo assillano la cura del mio onore. Ebbene, la santa donna, a quanto riferiscono le cronache, era afflitta non solo da un fratello bamba, incestuoso, matricida e fratricida, ma anche da un'anomalia veramente straordinaria in bocca. Dotata per una buona digestione, se è vero che una buona digestione comincia in bocca, come dice la sapienza popolare, aveva una doppia fila di denti per ogni mandibola. Dunque, sembra dire Anatole France, occorre andarci piano con certe trasposizioni meccaniche dai caratteri corporei ai caratteri morali. Più che scienza, qui si fa dell'ideologia e non è la prima né l'ultima volta che nel nome dell'igiene si semina razzismo. Non è l'ultima volta, tant'è vero che 100 anni dopo, ai giorni nostri, della questione ritroviamo le tracce e la sublimazione a certi livelli simbolici. È noto l'imperativo categorico americano del lavarsi i denti, la coazione ossessiva a ripetere il gesto e i tabù che questa mania custodisce gelosamente. Nei loro film la rappresentazione del cattivo si avvale spesso di qualche carie disposta ad arte, quando non addirittura di una mancanza di incisivo che come un buco nero della coscienza testimoni di una febbrile inclinazione al male. Un esempio stupendo in proposito era dato da David Lynch in quel suo film del 90, Cuore selvaggio, non so se lo ricordate, in cui il cattivissimo Willem Dafoe sfodera un'arcata dentaria in cui il dominio incontrastato della carie rappresentava al meglio il dominio incontrastato della malvagità. Come dire che nel rodere denti e cervello, sempre del medesimo tarlo si tratta. Il male che agisce in bocca lo farebbe allora in delega di un altro male, altrettanto attivo in cabina di regia della persona. Il sorriso diventa, da segno di pace e di mansuetudine, certificazione di una qualità morale. E che le cose fra noi siano giunte a questo livello di mistificazione ce ne accorgiamo dalla pletoricità inesauribile dei sorrisi che ci vengono somministrati in televisione da chiunque ed in qualsiasi occasione. Ma venne l'ora dei ponti, non più quella del ponto, a portare un briciolo di giustizia, si fa per dire, almeno per chi può permetterseli. Le protesi odierne, prodotti ad alta tecnologia, sostituiscono l'esito infestante della carie con palliativi pressoché indistinguibili. Riparano torti, prima ideologici che ortodontici, e ci conferiscono una parità che già dopo aver appena aperto bocca non avremmo agli occhi del mondo già più. È tale la loro perfezione che, come contrassegni di futuri diversi che ci tengano ad apparire tali, sono prevedibili protesi munite dell'apposito dente cariato, magari artificiosamente, dal raffinato orefice di turno. Il ponte, insomma, ci fa passare da una sponda all'altra nel giudizio sociale. Nessuna meraviglia dunque che costi caro, più di un certificato di buona condotta cui non si abbia diritto.